Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, l'appuntamento di Radio 24 con le storie della cronaca per raccontare la nostra Italia in controluce. L'inizio della primavera segna anche l'avvio della stagione dei grandi concerti musicali, ma qual è la situazione in Italia per quanto riguarda gli spazi disponibili? Stadi, palazzetti, auditorium, pochi per la verità, e dunque in assenza di grandi sponsor spesso è difficile realizzare grandi eventi. Marta Cagnola. Gli spazi per la musica in Italia non esistono. Ci sono i teatri e bisogna venire a patti con i cartelloni, le discoteche, ma non si può toccare il fine settimana. I palasport, bisogna mettersi d'accordo con le squadre sportive. E poi gli stadi. Ma ci sono anche lì le partite e le polemiche a non finire. Soprattutto a San Siro, come racconta Roberto De Luca, numero uno di Live Nation Italia. Io organizzo concerti allo stadio di San Siro da 20 anni e ogni anno devo dire che esiste un problema che non esiste mai però per il calcio, no? Come se diciamo tutto l'anno il pubblico del calcio non apre bocca, insomma, ecco, cioè non si muove, sta fermo, eccetera eccetera, cosa che non è così. La polemica esplode ovviamente nell'estate quando ci sono i vari concerti. Tutto questo però è anche diciamo alimentato da uno sparuto gruppetto di persone, per ciò che riguarda San Siro ovviamente. Tendenzialmente la musica va a ritagliarsi degli spazi in strutture che non sono le sue strutture, non sono le proprie strutture, ecco. Così accade che Paul McCartney, ad esempio, rinuncia al Meazza poiché non desidera avere limitazioni di decibel. Ma come e dove si organizza un concerto in Italia? È ovvio che andiamo a cercare uno spazio che sia consono intanto a contenere il concerto e poi soprattutto che possa dare dei risultati in termini di vendita di biglietti che siano interessanti. Si va laddove esistono. La stazione ferroviaria è facilmente raggiungibile, cioè esiste una collegamenti con città che siano collegamenti logici, quindi Milano, quindi Torino, quindi Venezia, Bologna, Firenze, Roma, dovendone fare uno soltanto. Dovendone fare diversi invece, o potendone fare diversi di concerti, è chiaro che allora si vanno a ricercare diverse zone geografiche in modo da soddisfare e le esigenze dello spettatore e anche e soprattutto le esigenze degli organizzatori e dell'artista stesso. Questo concerto è dedicato a tutti voi. Esistono spazi che hanno un valore assoluto, che gli artisti desiderano, come San Siro appunto o l'Arena di Verona, dove suoneranno presto Alicia Keys e Rod Stewart. Esistono degli spazi in Italia che hanno una valenza e un valore proprio al di là dell'artista che ci suona. È meglio vedere un concerto all'Arena di Verona, allo stadio di San Siro, che non vederlo in un prato, no? Dove come dire, la coreografia è differente, diventano dei posti che hanno una loro valenza personale al di là dell'artista. E a proposito di cultura, qualcuno si è ricordato di inserirla nei progetti dell'Expo che si realizzerà nel 2015 a Milano. Raffaella Calandra. Che verso fa la cultura a Milano oggi? Non è solo la musica della Scala, il palcoscenico del Piccolo o la fila davanti alla mostra di opera a Palazzo Reale. Se con un grande microfono si potessero sorvolare le strade e trasformare in suoni le fibrillazioni e le atmosfere, le tradizioni e le aspettative, le lamentele dei pessimisti e l'entusiasmo degli altri, la voce prevalente della città sarebbe quella dei suoi cantieri. I cantieri dove si ripara e si modifica ciò che c'era e quelli dove si crea dal nulla. Perché su un punto tutti sono d'accordo, l'Expo può e deve diventare l'ascensore verso un nuovo attico.